eccoci qua anche per le ascoltatrici e gli ascoltatori del Jazz Live. Un buon mese di maggio da Radio Città Fujiko, puntuali più o meno 11:32 minuti. Iniziamo con un punto di snodo con il fine stagione per quanto riguarda alcune di queste rassegne che stiamo seguendo, ovviamente una in particolare che sarà quella del Jazz Club a Ferrara. Intanto buona vigilia di weekend a voi ed Alfredo Pasquali. Buongiorno Alfredo. Buongiorno William. Dunque sì, la lunghissima stagione prima e dopo Natale del Torrione Jazz Ferrara, che ha trovato moltissimi appuntamenti di grande interesse, è arrivato in fondo, e devo dire che anche in fondo, dulcis in fundo. Beh, in fondus è arrivato un dolce quanto mai preparato per quanto riguarda anche l'aspetto di accademia e didattica in intersezione con il Conservatorio di Ferrara e lo stesso Torrione, che sarà nella serata conclusiva di domenica, e ne parleremo. Avrà un concerto per quanto riguarda sabato con collaborazioni e una formazione di cui vi parleremo, e già da questa sera, restando in un panorama italiano sempre con grande qualità. Preciso solo che nella prossima puntata avremo un compendio generale 2023-2024, come di solito al Jazz Live facciamo. Allora, per questa sera iniziamo venerdì 3 maggio alle 21:30, ricordo ultimo weekend di programmazione al Jazz Club Ferrara il Torrione, con il quartetto di Michele Polga. È un quartetto che dà una disinvolta interpretazione di un jazz che affonda le radici in maniera ben salda, allo stesso tempo dà un'originalità e una continuità a uno sguardo moderno per quanto riguarda la formazione, con il frontman Michele Polga al sax tenore. Troviamo Alessandro Lanzoni al pianoforte, che già abbiamo conosciuto, come del resto la ritmica di Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria. Anche per quanto riguarda l'Italia, le presenze al Jazz Club sono veramente da dulcis in fundus, Alfredo. Sì, Michele Polga, dopo aver studiato proprio al Conservatorio Frescobaldi di Bologna, quindi di Ferrara, e poi frequenta vari master Veneto, non Veneto, e adesso invece è un insegnante affermato. E in questa formazione segnala, oltre al sax tenore di Polga, evidentemente, che fa il leader, Alessandro Lanzoni al pianoforte, che è sempre un personaggio da seguire, perché è sicuro col suo stile tra il classicheggiante e il sincopato monchiano, devo dire che è molto particolare. E Gabriele Evangelista al contrabbasso, una vecchia conoscenza anche del Torrione, e Bernardo Guerra completa la batteria. Ed è una formazione da seguire, ricordando anche che lo stesso frontman Michele Polga ha avuto importanti collaborazioni con Paolo Freso, chi non le ha avute, con Roberto Gatto, con Ben Riley, quindi già il panorama diventa quanto mai eterogeneo. Esatto, Steve Swallow, e insomma adesso ascoltiamo come sono state progettate le linee per quanto riguarda questo lavoro, che sarà venerdì 3 maggio, cioè stasera al Torrione, ricordando che alle ore 21:30. Michele Polga, e l'ho contattato appunto per dare un'anticipazione, sentiamo le sue parole. Il progetto è, naturalmente, come sapete, a nome mio, e prevalentemente la musica che suoneremo sarà musica originale che io ho composto. Ci sarà qualcosa di più recente e qualcosa anche preso dalle composizioni che sono già state anche pubblicate in qualche mio CD. Generalmente però con questo quartetto non disegniamo nemmeno, diciamo, di confrontarci con qualche brano della tradizione, specialmente magari quelli composti dai sassofonisti che io amo parecchio. Quindi, e chi sono questi sassofonisti? Vediamo se ho intuito. Sì, Joe Anderson è, diciamo, il mio faro, mettiamola così. Però in realtà, da un punto di vista compositivo, devo dire che Wayne Shorter e anche qualcosa di Benny Golson, diciamo, ci piace spesso suonarlo. Sì, anche perché nella musica che ho ascoltato di tua composizione ho percepito tanto soul, e questo è qualcosa che, con i nomi che tu hai, con sfaccettature diverse, sia Benny Golson che Wayne Shorter, sì, ognuno però portava tanto soul, secondo me. Sì, sì, diciamo che c'è del lirismo in tutti loro. Ecco, e quindi è un'interpretazione della tua musica azzeccata, ecco, per quanto riguarda. E chi suonerà con te? Allora, al pianoforte ci sarà Alessandro Lanzoni, al contrabbasso Gabriele Evangelista e alla batteria Bernardo Guerra. Sono tre musicisti toscani con i quali ormai da un po' di anni c'è una collaborazione, in qualche momento più intensa, in qualche momento meno intensa. Loro sono comunque dei musicisti giovani, però già con un'esperienza alle spalle molto importante, perché le loro collaborazioni sono tutte di alto rilievo. E però al di là di questo, insomma, diciamo al di là di questo aspetto un po' più così patinato da copertina, in realtà quello che mi piace di loro è come sentono la musica, specialmente per quando suoniamo la musica, la mia musica, che la musica che scrivo io. La sensazione, cioè quello che provo quando sono con loro, è che loro suonano quello che io mi immagino, è quello che vorrei sentire, e in più hanno anche, diciamo, su quell'onda la capacità di proporre stimoli musicali che in qualche modo sento miei, ecco, mettiamola così. È una musica anche molto da vedere, da ascoltare ad occhi chiusi, secondo me. Ma ti ringrazio. Proprio perché ha questa particolarità della comunicazione oltre, della microsensazione oltre. Eccolo qui Alessandro Lanzoni ad accompagnare l'intro e il tema di Michele Polga per il concerto di questa sera al Torrione. Ecco, ha citato Joe Henderson. Io nell'ispirazione ho sentito tantissimo soul jazz, nella ispirazione hard bop. È un neo hard bop questo suono e anche questo tipo di scrittura, dove il soul fa la parte così di comunicazione e un aspetto leggibile di interpretazione. Cosa ne pensi di questa mia recensione, Alfredo? Beh, giusto, direi che ricorda molto certe impostazioni Blue Note. Esatto. Per dare un taglio, ecco, quelle copertine tra l'altro molto identificative. La sintesi. Sì, però Joe Henderson è stato anche un musicista, è stato uno insieme a Cannonball Adderley, insieme a Horace Silver, uno degli interpreti, anzi per quanto riguarda la sonorità hard bop, se vogliamo è riuscito anche ad andare nella ricerca. Sì, perché l'etichetta Blue Note, Joe Henderson in particolare, non è solamente, tra virgolette solamente, perché basta e avanza, un hard bop ritrovato, ma è anche quella musica che si spinge non nell'informale ma nella ricerca. Penso a Joe Henderson quando partecipa ai dischi con il pianista Andrew Hill, per esempio, ecco, con Pulse, sì, and Pause of Departure, dischi davvero importanti e complessi. la formazione, sì, la conosciamo, ecco, per così dire. Beh, sì, diciamo che sono molto legato a questa formazione, che è abbastanza standard per un sassofonista, cioè nel senso che pianoforte, contrabbasso, sax e batteria è il quartetto più classico, l'assetto più classico. Mi piace suonare anche in trio senza l'armonia, oppure in quartetto ma senza lo strumento armonico, però diciamo che essendo amante dell'armonia, avere uno strumento che la espleta come il pianoforte e poi suonato come lo suona Alessandro, è come se desse una sorta di completezza a quello che io ho in mente. Certo. Mentre quando si suona in un contesto un po' più scarno, soltanto con strumenti monofonici, allora lì l'armonia è un po' più celata. Se da una parte questa cosa può essere anche uno stimolo per una ricerca sonora alternativa, in realtà poi la mia musica io tendo a comporla sempre prima al pianoforte. Cioè, ecco, forse c'è questo da dire anche, che le mie composizioni partono generalmente dal piano, cioè il tema è qualcosa che arriva dopo l'armonia, e quindi la formazione classica con il pianoforte è quella che più in qualche modo espleta quello che, certo, che sento, che viene portata. Sì. Lavori, dischi, pubblicazioni? Guarda, adesso con questo quartetto abbiamo fatto un po' di qualche concerto nei mesi scorsi, adesso abbiamo questo qui a Ferrara, il giorno prima suoneremo a Bologna e poi il 17 maggio suoniamo al Festival di Vicenza, e il 18 ho fissato una registrazione in studio. Non so se poi uscirà una pubblicazione, però intanto la voglia di mettere qualcosa, di fissare qualcosa su un supporto fisico c'è, quindi speriamo che poi possa anche avere una pubblicazione, diciamo. E io ti auguro il meglio e ti ringrazio per la disponibilità. Appuntamento a Ferrara. Grazie. Arrivederci. Ciò per quanto riguarda la serata odierna, quindi abbiamo aperto il weekend. Diamo anticipazione per quello che sarà l'ultimo in rassegna, ma in questo caso last but not least. Già state ascoltando le note di un pianista che in effetti sono molto carico per assistere al concerto che sarà di Dejan Tertic dal progetto Axiom, sabato 4 maggio alle 21:30. Al pianoforte troviamo Bojan Zi, questo musicista che ha la capacità sia monchiana che anche strutturale assolutamente di ricerca per la Label Bleu, che è una label francese molto molto importante, insomma, insieme a Chris Speed, tra l'altro, al sax tenore, quindi una formazione assolutamente ricca. Sarà un concerto un po' strutturato, non certamente immediato, però insomma mi lascia l'acquolina in bocca, per così dire, per domani. La formazione in realtà è promosso da Dejan Tertic, batterista. Sì, sì, certo. E quindi poi aggiunge, completa il quartetto, Matt Penman al contrabbasso. Sì, Bojan Zay, come tu hai detto. No, è difficilissimo, sì. Lasciamo stare. Perché è un nome impronunciabile, quindi l'ha tradotto così, legge molto... Beh, più immediato. Un acronimo. Ecco. Il pezzo che hai scelto è emblematico. Ha questi elementi a blocchi sonori, anche con echi classicheggianti, però appunto con questa capacità di portare il jazz in questa atmosfera che è molto identificativa, molto personale del pianista. E per quanto riguarda altri musicisti che ascolteremo, Matt Penman al contrabbasso e, come ho detto, Chris Speed al sax tenore, al quale lascio a te la parola per Chris Speed, che conosci molto meglio. È uno dei sassofonisti che è frequentissimo in tantissimi gruppi perché è ricercatissimo, è un musicista molto introverso. Sì. Non è certo quello che ti fa battere tra virgolette il piedino. No. Ha un, in particolare al tenore, ha un suono molto chiuso, quasi da oboe. È tutto legato a una ricerca interna. Io personalmente lo apprezzo molto, anche perché riesco a entrare in questo suo gioco di note. Al clarinetto è più tradizionale, diciamo, ma sempre molto bravo, perché è un musicista che ha le doti tecniche indiscutibili. E per quanto riguarda il progetto Axiom di Dejan Terzic, che ricordo è frontman della formazione, batterista, ho selezionato questo brano, Parasomnia è il titolo, ve lo propongo per darne anticipazione al concerto di domani al Torrione. Che di Claudia Quintet in questa formazione, certo, se vogliamo. La tonalità di del sassofonista, beh, direi che in qualche modo, insomma, colora con Chris Speed il laurea di questo. Completezza per il panorama degli appuntamenti, proseguo ovviamente Angelica e questa sera con Roscoe Mitchell. Ne abbiamo parlato la puntata precedente, ne ho parlato anche in altri suoni con il direttore artistico Massimo Simonini. Questa sera Roscoe Mitchell e Michele Rabbia al Teatro San Leonardo, centro di ricerca musicale, per la rassegna Angelica, 34esima edizione. Per quei pochi che non lo sapessero, Roscoe Mitchell, chicagoano, legato all'AACM, l'Associazione dei Musicisti Creativi per l'Avanzamento della Musica Neuroamericana, era l'anima grigia, cioè l'eminenza grigia dell'Art Ensemble Chicago, e poi dopo ha cercato mille sperimentazioni. Troviamo appunto l'Angelica non a caso. Batterista bosniaco Dejan Terzic, accompagnato con Chris Speed al sax tenore e al clarinetto, per la serata di domani sera al Torrione. Il progetto è Axiom. magari arriva un altro disco per la presentazione omnicomprensiva della prossima puntata, dove con Francesco Bettini daremo un compendio generale. Questa musica a segmenti, quasi esatto. A singhiozzo. A segmenti, bravo, sì. Molto Kandinsky, molto... Già di mio sono abituato a divagare, ma non mi dilungo più di tanto e arrivo a domenica. Nell'incipit del format, nel dar la presentazione, ho parlato di un aspetto didattico e accademico e non manca assolutamente al Torrione. Infatti la chiusura è con questo Blended Intensive Program, un lavoro curato, qua messo dal prof, Achille Succi. Achille Succi è un musicista fisicamente quanto dal punto di vista delle sonorità imponente. Questo omone che ha una potenza di suono molto molto incisiva e anche una struttura curata, tanto più che ha avuto la possibilità di condurre questo progetto Erasmus più Blended Intensive Program con la partecipazione degli allievi, oltre che del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, per quanto riguarda questa intersezione di lavoro con gli istituti di Riga. Quindi siamo in Estonia, adesso ci guardo per bene, sì, perché mi confondo, sempre. Io confondo i baltici. I paesi baltici. Sono bravo in geografia, Vilnius, ma con i baltici... l'Estonia Tallinn. E Tallinn. Tallinn, ok. È la crisi della settimana È il momento. Lì vai in... Dopodiché c'è anche Barcellona, Lisbona, qua siamo già più facile, insomma, se vogliamo, ma non solo. E ce ne parlerà più nel dettaglio Achille Succi, che dà anticipazione a quello che sarà appunto questo appuntamento domenica 5 maggio, e i Fusi come Immobile, tutt'altro che immobili, ma per tutta Europa, alle ore 21.30, Songs from the Ankno Blended Intensive Program. Chiudiamo la stagione con la Domenica del Torrione nel weekend che ci attende. Siamo con Achille Succi, che innanzitutto saluto. Buongiorno Achille, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovati a voi. Ascolta, questo lavoro che tanto nella presentazione ti porta a essere il professor Achille Succi, di che si tratta con i ragazzi, con gli allievi che hanno portato il compimento del progetto? Di che sonorità e di che lavoro si tratta? Ci puoi dire qualcosa di più? Certamente. Allora, è un progetto molto articolato, organizzato dal Conservatorio di Ferrara, che è capofila. Si chiama in genere BIP, cioè Blended Intensive Program, e fa parte di un programma di Erasmus articolato però con il coinvolgimento di più conservatori europei, e nella fattispecie ci saranno ragazzi che provengono dal Conservatorio di Breslavia, cioè Wrocław in Polonia, da Riga, dall'Accademia di Musica di Riga in Lettonia, poi ci sarà l'Accademia, l'Università di Lusiada di Lisbona, cioè naturalmente noi come Conservatorio di Ferrara, io faccio parte del Dipartimento di Jazz, insegno sassofono jazz e tecniche di improvvisazione. Sarà, ecco, il Taller de Musique di Barcellona, mi stava sfuggendo questo. Beh, no, abbiamo completato la formazione, che è veramente eterogenea, tra l'altro. E cosa ascolteremo? Arriveranno i ragazzi a Ferrara e incominceremo a lavorare su un materiale che loro hanno già preparato, perché questo programma, questo progetto prevedeva incontri online in cui si sarebbe discusso del repertorio che avrebbero dovuto comporre loro stessi. Quindi sono brani jazz, naturalmente, della tradizione jazz, composti dai ragazzi stessi, quindi ognuno di loro, diciamo, che porterà un po' la sua cultura, la sua tradizione mediata da questo genere di musica, e si lavorerà tutti insieme. I gruppi naturalmente saranno eterogenei e ogni insegnante farà, diciamo, il coordinatore di un gruppo, di un quintetto, saranno quattro sestetti diretti da un insegnante che suonerà anche con i ragazzi. Quindi formazioni che hanno nazionalità diverse, sempre però legate a un lavoro di struttura che diventa poi comune, se ho capito bene. Esattamente, esattamente così, per favorire appunto anche quello che è la filosofia dell'Erasmus, del progetto Erasmus, e anche del BIP, del Blended Intensive Program, che è quello appunto di favorire gli scambi tra istituzioni e tra ragazzi provenienti dalle varie parti d'Europa. Io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione, ci vediamo domenica a Ferrara. Questo disco di Achille Succi con Christopher Culpo al piano e Glauco Benedetti, come potete ben sentire, alla tuba. E comunque, facendo un così dal punto di vista rapido, molto, molto emozionale, quello che è il programma di questo weekend per quanto riguarda questa sera, quindi un raffinato new hard bop jazz con la formazione di Michele Polga. Dopodiché abbiamo il sabato con Chris Speed per un lavoro invece che dà uno sguardo, se vogliamo, contemporaneo, strutturato in maniera completamente diversa, ma allo stesso modo di gusto, e la conclusione con i giovani e la collaborazione tra diversi conservatori. Quindi onore al merito e al Torione, anche perché tutti i weekend sono stati strutturati in questo modo, e tenere in piedi una stagione così e mantenerne anche la qualità, insomma, bravi. E non solo i weekend, perché adesso non ne abbiamo parlato perché era martedì 30 aprile. Ne ho parlato io. Bravissimo, perché c'è questa grande dedication a Franz Zappa. Sì. Quindi il Torione è sempre in palla. Quando c'è una festa che uno può magari andare un po' più tardi, c'è il concerto. E anche perché il 30 aprile è stato il Jazz International, certo, Day, quindi è stato fatto un passo indietro per quanto riguarda il gruppo dei 10, che sono stati un po' gli ideatori di una sorta di jazz club a Ferrara, e così è stato ricordato anche il 2024 con il 30 aprile Jazz International Day. Allora, 12:01, a breve andiamo in pubblicità, un po' di musica, poi rientriamo e ci spostiamo nella città bizantina di Ravenna. A tra poco. E un buon ascolto. Thank you.